Tanti piccoli passi nel vialetto d'asfalto, in testa c'è un canto che ti piace così. Serve la dedizione, cerchi la perfezione, vivi nel pentagramma, ma non è tutto lì. Perché per te perché per te, per te, ah. La musica è il segreto, linguaggio universale, per dare una voce a chi non può parlare. La musica ci può incoraggiare, regala una speranza che non si può comprare, che non si può comprare. Non c'è giorno più bello di quel giorno in cui tu puoi portare un messaggio, questo conta di più. Conta più di un applauso che non si ferma qui, conta più degli ascolti, vive sempre così. Dedicato a te.